24 mattino. Soldi e dintorni. Buona giornata a tutti, benvenuti a Soldi e dintorni, ultima puntata di questo 2009, poi ritorneremo il 4 gennaio regolarmente in diretta alle 8:15 del mattino. Buongiorno naturalmente da Deborah Rosciani. Allora, di cosa parliamo per quest'ultima puntata dell'anno? Lunedì scorso il Sole 24 Ore ha pubblicato una sintesi molto ampia di tutte le novità che arriveranno nel 2010. Novità di natura fiscale, previdenziale, tecnologico, novità che impatteranno in misura anche rilevante in certi casi fra le famiglie, fra i consumatori, ma anche tra le imprese e i professionisti. Una sorta di guida che ha suscitato un certo interesse fra i lettori del Sole e noi abbiamo pensato di riproporvela anche via radio, spulciando in particolare fra quelle novità che riguarderanno il portafoglio delle famiglie che da qualche tempo è alla ossessiva ricerca di risparmio a tutti i costi. Allora, con chi facciamo questa piccola, ma anzi ampia agenda del 2010? Con chi l'ha coordinata per il Sole 24 Ore? Rossella Cadeo, benvenuta a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, un quadro generale della situazione, mai come quest'anno mi sembra di capire bisognerà tenersi aggiornati. Sì, noi abbiamo voluto andare a vedere quali sono le novità, le modifiche principali da tenere presenti in una serie, in una trentina di settori. Abbiamo selezionato 100 novità, 100 modifiche, 100 scadenze nuove o comunque aggiornamento di vecchi provvedimenti che vale la pena ricordare proprio per non iniziare l'anno con qualche sorpresa, e anche perché da queste novità in qualche caso è possibile trarre delle opportunità di risparmio. Infatti, una mini guida per non lasciarci cogliere impreparati, diceva Rossella Cadeo, sulle leggi, sui nuovi obblighi che arriveranno per tutti noi, sui nuovi adempimenti, ma anche sulle nuove opportunità che potremo avere a disposizione dal settore dell'energia, per esempio, ma anche dal settore del credito, del risparmio, quindi tutto ciò che ci può aiutare a magari limitare o a migliorare i nostri consumi in termini generali. I temi toccati, gli argomenti toccati, come diceva Rossella, sono tanti, una trentina ai settori censiti, si va per esempio dall'agricoltura all'università. Noi oggi vorremmo limitarci, perché il tempo a nostra disposizione è naturalmente limitato, su quegli argomenti che tocchiamo più di frequente, sia a Soldi e Dintorni che a Salvadanaio alle 12, per esempio l'energia, il credito e risparmio e la casa. Cominciamo con l'energia, Rossella? Sì. Nell'energia la novità più importante direi riguarda la bolletta bioraria. La bolletta bioraria che partirà dal 1 luglio per tutti quegli utenti che ancora non sono passati al libero mercato dell'energia elettrica. Quindi bisognerà cominciare a fare i conti con un consumo più consapevole degli elettrodomestici, della luce di casa, abituandosi magari a far andare lavatrici, lavastoviglie e quant'altro dopo le ore 19. Oppure durante i festivi. Tra l'altro sarà un anno molto importante, perché con il petrolio che comincia di nuovo a tornare a disturbare è probabile che avremo davanti a noi uno scenario di nuovi aumenti dell'elettricità, del gas. Per il gas già un piccolo ritocco è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui attenzione a queste novità importanti. Peraltro andranno in pensione anche le vecchie lampadine ad incandescenza, anche questa è una novità curiosa ma molto importante. Sì, anche questa è molto importante, bisogna cominciare a disfarsi delle lampadine a incandescenza, quelle col vetro a bulbo e il filamento interno. La messa in pensione di queste lampadine è già iniziata nel settembre del 2009, proseguirà gradualmente, per ora è interessato quelle con 100 watt di potenza, poi gradualmente verranno messe fuori commercio tutte le altre. Entro il 2012 queste lampadine non saranno più disponibili negli scaffali. Quindi misure che riguardano l'energia della nostra abitazione, ma soprattutto anche l'ambiente. Allora, per chi invece ha convertito o vorrà farlo il proprio impianto di illuminazione, il proprio impianto di riscaldamento della propria abitazione attraverso il sistema fotovoltaico, qua gli incentivi per poter fare questa conversione si ridurranno un pochino l'anno prossimo. Perché? Sì, ecco, in questo caso calano gli incentivi del 2% nel fotovoltaico. È un provvedimento già in programma, era stato programmato da un decreto ministeriale del 2007. Poco alla volta appunto questi incentivi sono destinati a scendere, anche perché all'inizio erano impostati su tariffe incentivanti superiori, proprio per favorire questo passaggio al fotovoltaico. Ricordiamo anche che non cambiano le normative relative relative alla certificazione energetica delle abitazioni che sono oggetto di compravendita, ma di questo avremo modo di parlare anche nelle prossime trasmissioni. In ogni caso, dal punto di vista dell'energia nelle case, queste dovrebbero essere le novità più rilevanti dell'anno, anzi lo saranno senz'altro. Parliamo sempre di non più energia, ma ancora di casa, perché entra nel vivo proprio questo piano casa quest'anno, che dovrebbe permettere l'ampliamento di abitazioni indipendenti, secondo quanto ha stabilito il governo qualche mese fa. Rossella. Sì. Nel 2010 diventano operative le leggi regionali che permettono appunto questo ampliamento del 20% della propria abitazione, oppure nel caso di demolizione e ricostruzione la possibilità di aumentare la superficie del 35%. Queste leggi regionali sono state attivate in 18 regioni, mancano l'appello solamente Calabria, provincia di Trento e Sicilia, quindi gli abitanti residenti delle altre regioni possono procedere in deroga appunto ai piani regolatori. È un tema peraltro molto complesso, proprio perché le regioni hanno avuto la possibilità di legiferare in maniera indipendente, secondo poi chiaramente quanto stabilito a livello normativo generale dallo Stato, e poi ogni comune fa sostanzialmente quello che può, in termini anche in questo caso di totale autonomia, per cui è, come dire, una situazione molto variegata quella che c'è anche sul territorio nazionale, e anche di questo ovviamente torneremo ad approfondire più avanti nelle nostre trasmissioni. Parliamo adesso dell'altro grande tema che riguarda ogni giorno le famiglie italiane, cioè la gestione del proprio denaro, il rapporto con la banca, la gestione del proprio risparmio. Anche qui tanti punti toccati da questi 100 punti di questa agenda 2010 delle Sole 24 Ore. E allora, da che cosa cominciamo? Cominciamo magari da questa cosa di cui abbiamo già parlato a Soldi e Dintorni, annunciandola agli inizi di novembre, poi non ci siamo più andati ad approfondire appunto su come andasse avanti questo progetto, il Fondo Nuovi Nati, Rossella. Sì, il Fondo Nuovi Nati è partito appunto quest'anno, però diventerà operativo proprio nel 2010. Si tratta di un'iniziativa che permette l'erogazione di prestiti a tassi agevolati per un importo totale di 5.000 euro da rimborsare in 5 anni. E sono fondi che potranno servire alle famiglie per far fronte alle spese legate all'assistenza dei figli nati oppure adottati nel 2009, nel 2010 e nel 2011. Parte peraltro, anche si concretizza sempre di più, la moratoria sui mutui, cioè quel provvedimento che è stato orchestrato dal sistema bancario italiano proprio per permettere alle famiglie in difficoltà di sospendere per un anno i mutui se non si riesce più a far fronte appunto alla rata. E qua il sistema non è ancora completamente operativo, però di fatto le famiglie che vogliono fare questa richiesta possono già farlo, perché è disponibile la documentazione appunto necessaria. Debutta il conto corrente semplice quest'anno, un'iniziativa tra l'altro, se non ricordo male, voluta fortemente dalla Banca d'Italia. Sì, è un conto corrente semplice che potrebbe interessare quella fascia di popolazione che ancora non ha un conto corrente, che non ha una grande movimentazione in banca, e che prevede un conto con una serie di operazioni gratuite e comunque con un canone annuo molto basso, e viene offerto su base volontaria da quasi tutte le banche, come previsto da una disposizione della Banca d'Italia di fine di settembre. Monitoreremo attentamente su questo punto, perché insomma l'estratto conto è quanto di più difficile si possa leggere ed interpretare, per cui ben venga tutta la trasparenza in questo settore, perché la invochiamo davvero da troppo tempo. Allora, polizze assicurative. Da qualche anno sta avendo un grande successo il canale online per sottoscrivere delle polizze assicurative, soprattutto nel settore auto, attraverso il canale internet. E però ancora qualche famiglia un po' scettica sull'utilizzo di questo canale. Adesso però le famiglie scettiche saranno forse un po' più tutelate, perché c'è questo timore, e quali sono le novità in arrivo? Sì, arriva un nuovo regolamento voluto dall'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private. Questo regolamento attualmente è sottoposto alla discussione, all'intervento delle compagnie stesse, che potranno appunto dire la loro anche su queste proposte dell'ISVAP. Questo regolamento dovrebbe garantire più trasparenza nei contratti assicurativi venduti via internet, e anche prevedere una maggiore professionalità e un maggiore grado di formazione degli addetti ai call center, che sono appunto questo punto di contatto tra l'assicurato e la compagnia telefonica. Questo è quello che caratterizza le compagnie cosiddette dirette, quelle che vendono solo tramite telefono oppure online. Tante novità riguarderanno anche gli accaniti, e siamo tanti, consumatori di SMS con il nostro telefonino, perché arriva una novità che è stata forse poco enfatizzata dai media per qualche associazione dei consumatori. È un provvedimento non ancora sufficiente, perché gli SMS potrebbero costare ancora meno. Di fatto da gennaio parte un tetto sul costo dei messaggini telefonici. Sì, i messaggini telefonici, gli SMS, non dovranno costare più di 13,2 centesimi al ciascuno. È il tetto massimo previsto dalla GCOM, e va però detto che molto spesso gli SMS mandati dall'estero, proprio per questa normativa europea, costano meno gli SMS in roaming, quindi questo è un passo importante, però ci potrebbe essere altra strada da fare. Un'ulteriore novità. Allora, 100 punti, Rossella, ne avremmo toccati a malapena 10, speriamo di aver toccato quelli di maggiore interesse fra i nostri ascoltatori. Voi qua affrontate anche tutta la tematica del lavoro, le novità che riguarderanno il settore delle pensioni, la class action che parte da questo mese. Noi a questo tema dedicheremo questa settimana una puntata di Salvadanaio. Vuoi scegliere un'altra novità rilevante da raccontare ai nostri ascoltatori che partirà quest'anno? Ma per esempio in campo sanitario c'è questo scontrino parlante, quello che accompagna la vendita di medicinali in farmacia, non sarà più così parlante, proprio per rispettare la privacy del consumatore, quindi non riporterà il nome del medicinale sulla carta che certo. viene consegnata. Allora, l'agenda del 2010 del Sole 24 Ore da tenere appesa in casa, sicuramente per chi non vorrà farlo, la facciamo pubblicare sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Rossella, non ci resta che augurarci buon anno, noi ti aspettiamo presto. A Sodia Dintoni, a Salvadanaio, come sei sempre la benvenuta tra di noi. Grazie, buon anno a tutti. Buon anno anche da parte nostra, dalla redazione di Soldi e Dintorni. Noi alle 12 con Salvadanaio ci risentiamo con il meglio di alcune delle nostre puntate. Da Deborah Rosciani, buon anno a tutti. 24 mattino. 30 minuti trascorsi dopo le 8 e insieme per le notizie in primo piano. Buona giornata da Irene Zerbini. Afghanistan è stato rivendicato dai talebani, l'attentato in cui sono morti 8 soldati americani. Questa mattina sono stati uccisi anche 4 soldati e una giornalista canadese. In fuga? No, ancora a Teheran, è il giallo sulla sorte dei due oppositori iraniani Mousavi e Karrubi. In Italia invece ci si mette in viaggio per le vacanze di fine d'anno, la benzina è sempre più cara e da domani tra l'altro rincari anche sulle tariffe autostradali. Nello sport ho quasi pianto con le lacrime di Beckham a Milano, concludiamo questa corsa sui titoli delle ultime notizie. Beckham dice: quando ho saputo che in Champions incontrerò il mio Manchester United mi sono quasi messo a piangere. E tra pochissimo, bianco o nero, il sondaggio di Radio 24, potete continuare a votare sul sito www.radio24.it. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. E in Italia, dove non arriva lo Stato, è costretta a pensarci la famiglia. Se in Austria, Francia e paesi scandinavi lo Stato fornisce dei supporti significativi per l'assistenza, per esempio, a bambini, ad anziani, a malati, sostiene i disoccupati, aiuta i giovani a intraprendere una vita autonoma, in Italia tutto è a carico della famiglia. Come ridurre questo ritardo rispetto agli altri paesi europei? Da dove partire? Ne discuteremo oggi con i nostri ospiti. I vostri contributi sono naturalmente benvenuti via SMS al 349-238-6666 o, se volete telefonarci nel corso della trasmissione, il numero verde è 800-24-00-24. Do il mio buongiorno a Stefano Zamagni, un economista italiano, tra l'altro presidente dell'agenzia per le Onlus. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E grazie per la sua disponibilità in questo 31 dicembre anche ad Alessandra Graziotin, un medico specialista in ginecologia e oncologia, ma anche una psicoterapeuta in sessuologia, direttore del Centro di Sessuologia Medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano e un'acuta osservatrice della realtà italiana. Buongiorno Graziotin. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a Renata Nanetti, da 41 anni negli Stati Uniti, docente di urbanismo alla University of Illinois in Chicago. Benvenuta, professoressa Nanetti. Grazie, buongiorno. E lei potrà darci un utile paradigma, un utile confronto anche con le realtà all'estero. E noi abbiamo chiesto, continuiamo a chiedere nel nostro sondaggio, eventuali sussidi nel 2010. Che priorità dovrebbero avere? Dovrebbero andare ad anziani, a donne o a disoccupati? Ed è significativa la scelta in questo paese, significativa anche nella percentuale. Fino a questo punto agli anziani dovrebbero andare i sussidi secondo il 37% di coloro che hanno preso parte a questo sondaggio, i disoccupati il 45%, le donne sono le ultime della fila nelle preferenze degli ascoltatori di Radio 24 e infatti solo il 18% le ha indicati come possibili beneficiari di nuovi sostegni statali o comunque delle strutture pubbliche. Partiamo da questo anomalo modello italiano in cui sono i nonni ad aiutare a accudire i nipotini e ottengono spesso in cambio poi che figlia e nuora, insomma le donne della famiglia, si prendano cura dei nonni non autosufficienti. E ci ricorda anche un libro di Alberto Alesina e Andrea Echino che si intitola L'Italia fatta in casa, che la famiglia si accolla degli obblighi formali di assistenza senza che poi riceva un adeguato sostegno economico e di servizi. Quando si parla di famiglia, alla fine spesso si parla di donne. Vorrei cominciare con le sue osservazioni, Stefano Zamagni. Buongiorno e grazie. In effetti il problema è di natura essenzialmente culturale, e cioè nel nostro paese, per tutta una serie di ragioni che non sto qui a chiamare in causa, la famiglia viene ancora oggi considerata come luogo di consumo e non come luogo di produzione. Cioè dire, la famiglia è visualizzata come quella compagine dove si consuma un reddito per comprare beni e servizi di diversa natura, che viene però prodotto al di fuori, nella fabbrica, nell'ufficio, nel mercato e così via. Ora, o noi correggeremo questa struttura culturale o altrimenti non ne usciremo, perché il fatto dei dati che lei ha citato e sono veri, che cosa dicono? Dicono che se la famiglia è un luogo di consumo, che fare figli è un bene di consumo, e a un certo punto se una coppia vuol fare figli, un'altra coppia si prende un cane e un'altra si prendono i figli. Cioè non si vede nella famiglia quel luogo generativo di beni di varia natura, soprattutto beni relazionali e di beni che servono ad accumulare il capitale sociale, che fanno il progresso di una nazione. Quando si chiamano in causa i paesi nord europei, la Svezia e altri eccetera, mai si mette in evidenza questo. Si guardano le cifre, ma non si guarda qual è la causa che ha generato quelle cifre. La causa è che la famiglia lì è considerato un luogo di investimento dove si produce, così come un'impresa fa investimenti per produrre cose che poi venderà sul mercato, dalla famiglia si fa altrettanto. Allora, se noi andassimo verso questa direzione, che vuol dire modificare anche i criteri con cui l'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica Italiano, rileva i dati della contabilità nazionale, il resto verrebbe a seguire. Professor Zamagni, lei ha nominato i modelli scandinavi, ma senza andare nell'Europa nel nord, dove c'è un distacco proprio, ha nominato il fattore culturale esplicito e sostanzioso con la mentalità italiana, andiamo qui oltre confine, in Austria o in Germania. Ecco, in Austria e in Germania il modello non è così distante da quello italiano, però la copertura dei servizi di cura residenziali e domiciliari fa sì che anche se le famiglie si prendono cura del malato piuttosto che della persona invalida, ricevano un sussidio molto più sostanzioso, significativo. Faccio un esempio che in qualche modo riassume poi tutte le situazioni. Il famoso accompagnamento, l'indennità di accompagnamento, che ancora oggi in Italia è di 460 euro al mese al massimo. In Austria nel 2006, questi sono i dati che ho a disposizione, era già di 1.562 euro, mentre in Germania Germania il massimo era di 1.432 euro. Ora, al di là di questa contabilità spicciola, poi in cosa si traduce questo? In maggiore autonomia per i membri familiari. Spesso avere una persona non autosufficiente o invalida o che ha sviluppato una malattia si traduce in Italia in uno stato di prigionia, soprattutto, lo sottolineo ancora una volta, per le donne della famiglia. Alessandra Graziottin, lei che con le donne ha a che fare tutti i giorni. No, mi permetto di dissentire da quanto è stato appena detto, perché non possiamo leggere la famiglia solo in chiave economica, con tutto rispetto. A me sembra che quando si parla di famiglia si debba tener conto assolutamente che la famiglia è un centro di grandissima produzione, no, è un termine orrendo, ma mi scuso visto che parliamo di termini di economia. Però ci siamo capiti. Di affetti, ragazzi, di affetti, di coesione sociale, di attaccamento affettivo, che è un valore principe in tutte le specie, ma in particolare nella nostra. Quando noi guardiamo il modello nordico, certamente abbiamo donne molto più indipendenti, ma abbiamo anche un tasso di suicidi elevato, abbiamo divorzi e separazioni più alti in Europa, abbiamo un indice di solitudine spaventoso, abbiamo un alcolismo diffuso. Allora attenzione, il modello austriaco mi sembra molto più interessante, perché noi non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca, ossia se la famiglia è un valore e la capacità di tessere affetti, di costruire relazioni, di costruire un senso nell'attaccamento e attenzione. Il sistema familiare, se andiamo a vedere le dinamiche per esempio nell'aggressività, avere famiglie coese abbassa gli indici di aggressività, di converso la solitudine, l'essere tutti sconosciuti gli uni agli altri, aumenta anche gli indici di aggressività sociale. Ma a parte questo, torniamo al concetto di famiglia. Una famiglia che sappia mantenere tutto il proprio valore di centro degli affetti, di centro delle relazioni, di centro della stabilità personale e relazionale. Ma venga, ecco il grande passo avanti che ha fatto l'Austria rispetto a noi. Venga anche aiutata, però. Prego? Venga anche aiutata, sostenuta, perché poi a livello valore, e in questo senso in due direzioni, c'è un riconoscimento estrinseco, sociale, in cui vengano pagate e riconosciute, quindi economicamente, qui sì, quelle che sono delle funzioni che vanno a surrogare una latitanza dello Stato, o comunque un'inadeguatezza dello Stato, o comunque un ritenere che un'assistenza in famiglia ha un valore affettivo che l'istituzionalizzazione non dà, ma dall'altro quello che le donne italiane dovrebbero fare, e in questo hanno una loro responsabilità, è coinvolgere di più i maschi e i figli. I maschi italiani sono quelli che in Europa dedicano il minimo tempo alla famiglia e alla cura della casa e all'aiuto alla moglie o alla partner. Allora, i maschi si prendono una quota dello share, come si dice, della responsabilità accuditiva, ma le donne e i mariti, i partner, i genitori, li educano i bambini fin da piccoli a condividere proporzionalmente all'età le piccole e grandi incombenze familiari. Ne faranno degli adulti più responsabili, più riconoscenti, invece che dei principini inetti e viziati. E quindi abbiamo introdotto altri due elementi importanti, quelli della coesione sociale, degli affetti e del prodotto di questo affetto, di questo sentirsi amato, di questa coesione sociale che spesso è difficile da misurare, e l'elemento della responsabilità. Esatto, e brava. Delle donne e delle madri di questi maschi del futuro, perché poi esatto. Se l'Italia e gli italiani esatto. Vengono tacciati sempre di essere bamboccioni, non può essere solo colpa, anche se è un elemento importante, del mancato indennizzo statale. Lo esatto. Chiedo a Renata Nanetti, una professoressa che ha una doppia esperienza, Raffaella. Perché è italiana. Raffaella Nanetti, mi scuso, le chiedo, professoressa Nanetti, visto che lei da 40 anni ha la possibilità di confrontare due sistemi quasi diametralmente opposti, quello statunitense e quello italiano, in che senso lei si auspicherebbe degli interventi? Dunque, innanzitutto direi che sono più d'accordo con la professoressa che con il professor Tamagni, anch'io, nel senso che è importantissimo nell'esperienza italiana, nella realtà italiana, il fattore del capitale sociale di bonding, quello che chiamiamo di bonding, cioè di legame immediato, che è ricchissimo all'interno della famiglia, che è il primo nucleo proprio sociale. E direi, per rapportarmi anche a quello che a quanto ha detto la professoressa, direi che in effetti il capitale di bonding in Italia, ricchissimo com'è, all'interno delle famiglie è un capitale soprattutto femminile, in effetti, quindi sono moltissimo d'accordo su questo. Faccio un secondo appunto, confrontando la realtà italiana con quella americana, nel senso che è vero su una certa parte dell'intervento del professor Zamagni. Lo sento impaziente, professor Zamagni, tra poco avrà modo anche di aggiungere e replicare. Professor Zamagni, cioè della famiglia come unità di produzione, ma in questo senso forse lo stereotipo principale nel mondo, uno dei principali, è proprio la famiglia americana, che è una famiglia nucleare e che è una famiglia di produzione, nel senso che spesso entrambi i coniugi sono impegnati sul mercato. Impegnati sul mercato, le donne hanno un tasso di occupazione più alta certamente di quella che esiste in Italia. E allora in che cosa consiste il modello americano in raffronto a quelli scandinavi o quello austriaco o addirittura quello italiano? Consiste in sostanza nel fatto che esiste e riesce a sopravvivere, tant'è che il tasso di natalità in America è piuttosto elevato, perché c'è un sistema economico estremamente flessibile che permette l'entrata e l'uscita in maniera estremamente facilitata alle donne e agli uomini, cioè di interrompere e riprendere. E donne, vorrei aggiungere, non solo che lavorano, ma che lavorano in posizioni manageriali. Lavorano e raggiungono anche posizioni manageriali proprio perché c'è un sistema di... Hanno 3-4 figli ed è normale, insomma. Ed è normale perché possono interrompere quando hanno i figli e fino a una certa età dei figli e poi rientrare nel mercato. Senza subire delle penalizzazioni in termini di carriera. Vogliamo sentire anche le vostre opinioni. 44 minuti trascorsi dopo le 8, abbiamo gettato così quelli che sono i fondamentali di questo dibattito: come intervenire, dove intervenire per far sì che l'occupazione delle donne anche in Italia recuperi questo tasso di ritardo. Guardiamo all'Inghilterra, dove i sudditi della regina hanno tassi di attività femminile di 10 punti percentuali superiori rispetto a quelli italiani tra i 20 e i 24 anni. Infatti le donne inglesi entrano nel mercato del lavoro con una percentuale del 70% rispetto al 45% italiano. In Francia la fecondità è particolarmente alta e nello stesso tempo però i tassi di partecipazione al lavoro delle mamme con figli piccoli sono sensibilmente più elevati. È chiaro che questi sono indicatori di una società dove ci sono interventi e meccanismi che lo permettono. In Italia invece si parla moltissimo di famiglia, ci si riempie la bocca con la famiglia e spesso c'è una retorica nostrana decisamente sviluppata, ma questo non coincide un modello di sostegno che fa sì, visto che la famiglia è considerata in qualche modo un bonus, un valore, un qualcosa da difendere anche a livello di collettività, che fa sì appunto che chi opera all'interno della famiglia venga poi agevolato nella propria realizzazione, che cade in qualche modo a pioggia anche sul benessere dei segmenti più deboli, siano gli anziani, i bambini o altri membri familiari. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. L'Italia è fatta in casa, l'anomalo modello italiano con questo familismo diffuso, un po' frutto della mentalità, ma si può, se non invertire la rotta, quantomeno correggere, aiutare. Il professor Stefano Zamagni ha aperto questi interventi, presidente dell'Agenzia per le Onlus, e aveva qualcosa da obiettare rispetto agli interventi precedenti. No, nulla da obiettare, ma dal mio punto di vista la discussione precedente è stata interessante, perché io ho detto esattamente le stesse cose delle altre due mie colleghe, solo che le ho dette con un linguaggio diverso e da un'angolatura diversa. Io ho detto che la famiglia è un luogo di produzione di beni relazionali, di beni di gratuità e di capitale sociale, che è esattamente le stesse cose che hanno detto le altre. Ora, in Italia siamo abituati a fare polemiche sulle parole e sui concetti, perché ovviamente la colpa è degli economisti, che danno dell'economia una concezione economicistica, e cioè tutte le volte che si parla di economia tutti pensano al mercato e alle merci che vengono prezzificate sul mercato. Ma chi l'ha detto? L'economia è una scienza morale, non dimentichiamolo, è nata come scienza morale e deve tornare ad essere una scienza. Allora, per tornare al punto, Pensiamo anche al lato fiscale. L'Italia è un paese dove il fisco opera contro la famiglia. Ancora oggi non abbiamo il quoziente familiare. Gli altri paesi europei o hanno il quoziente familiare, come in Francia, o hanno qualcosa di analogo e così via. Tutto questo perché lo dico? Perché ancora si pensa alla famiglia come al luogo di consumo. Quindi si pensa alla famiglia come dire, tu ti vuoi fare la famiglia, arrangiati. Non si vede nella famiglia l'unità fondamentale della società che crea quelle relazioni di cura e non invece interventi di cura, perché questo avrei preferito che qualcuno dei miei colleghi dicesse, perché noi continuiamo ad andare avanti ancora a pensare alla cura in termini di altruismo e non in termini di reciprocità, cioè dire di relazioni di cura. Allora, il giorno in cui questo avvenisse, e secondo me avverrà fra non molto, il resto seguirà, perché allora le regole della flessibilizzazione del mercato del lavoro, ma soprattutto la compatibilizzazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. Questo oggi è possibile tecnicamente, tant'è vero che c'è già un progetto di legge che nelle aule parlamentari ormai da diversi anni. E speriamo che ci esca da queste aule. Speriamo che ci esca. Devo lasciarvi perché devo prendere un treno. Professor Zamagni, tanti auguri, speriamo il suo treno sia puntuale. Grazie. E naturalmente l'augurio di un eccellente 2010. Dicevamo, speriamo esca da queste aule parlamentari. Ci sono paesi, adesso citiamo anche la Danimarca, in cui il venerdì la giornata lavorativa termina alle 13, negli altri giorni alle 15, per permettere proprio a maschi e femmine, e in quella situazione, ricordiamolo, c'è anche un'imposizione fiscale, un costo del lavoro paragonabile al nostro, addirittura più alto, in quella situazione di procedere con le attività della vita, che includono naturalmente anche lo stare con i figli. Quando i danesi però vengono sollecitati a fare un paragone con la situazione italiana, ricordano che molti meno nel loro paese guidano auto di lusso, molti meno hanno questo tenore di vita in Italia, che spesso lo si dimentica, è comunque un privilegio rispetto a quello che si trova altrove. Stiamo parlando naturalmente anche di ferie e anche di situazione dei ragazzi. 7 figli su 10 restano a casa anche fino a 40 anni, secondo le ultime segnalazioni statistiche in Italia. Gli affitti sarebbero troppo cari, c'è chi dice, lo ha detto sul Corriere della Sera un professore di demografia dell'Università di Padova qualche giorno fa, Gian Piero Della Zuanna, è solo una scusa. In realtà, anche quando i ragazzi scandinavi o statunitensi o canadesi se ne vanno di casa, sono disposti ad affrontare delle situazioni di un calo di reddito e di benessere decisamente sostanzioso, rinunciano senza dubbio ad abiti firmati, telefonini eccetera, eppure riescono a creare la propria indipendenza. La vede così anche lei da Chicago, professoressa Nanetti? Esattamente, in questo senso senz'altro. Non esiste assolutamente una comparazione con gli Stati Uniti in questo senso, perché i ragazzi escono di casa all'età di 18 anni. C'è un accesso all'università, ai colleges, molto più alta come numericamente e in termini relativi di quanto non sia in Italia. Non c'è la possibilità di parcheggiarsi all'università, perché non esiste il concetto di fuori corso. Le tasse sono altissime e si pagano. Quindi i ragazzi che accedono all'università lavorano il fine settimana per aiutarsi. Lavorano tutta l'estate, da aprile a settembre. Non dipendono dai genitori e riescono così a terminare il corso degli studi. Poi si sposano anche molto prima e come dicevo prima che mi si interrompesse il collegamento, e poi hanno però la possibilità di entrare e di uscire da un mercato di lavoro che è estremamente flessibile. Detto questo, uno dei fattori negativi invece per quanto riguarda la famiglia negli Stati Uniti è che senz'altro il regime di cuscinetti sociali o di come si chiamano ammortizzatori sociali, sì, anche per la famiglia, è quasi inesistente. Sia il principale, quando il lavoro viene perso, quello della disoccupazione in alcuni stati è praticamente inesistente, perché varia da stato a stato e comunque è molto contenuto, sia per quanto riguarda, soprattutto parlando delle donne mamme, il concetto di aspettative per maternità, certo, che non esistono ancora. Quanto è? 6 settimane negli Stati Uniti? No, non esistono ancora, diciamo, normativamente. Esistono a livello volontario. O a livello di singola azienda, esatto. Nel settore universitario sono grazie, 2 mesi. Grazie, professoressa. Certo, non l'abbiamo interpellata perché gli Stati Uniti siano un faro, un modello in termini di welfare, ma perché comunque in termini di mobilità e di agilità e di senso dell'indipendenza dell'individuo c'è sempre qualcosa da imparare dagli Stati Uniti. Sentiamo anche i nostri ascoltatori all'800 24 0024. Andiamo prima a Imperia. Buongiorno Ezio. Buongiorno. Buongiorno, dobbiamo stringere, cerchiamo di essere sintetici, grazie per aver atteso. Senz'altro, la premessa è che io a 25 anni sono andato a vivere da solo perché non tolleravo più l'idea che mia madre mi stirasse le camicie. Questo è un problema, secondo me, culturale. E soprattutto sono convintissimo che il modello nordico sia assolutamente da prendere come esempio. Invece volevo dire, portare il mio contributo, non sono molto d'accordo sul discorso, secondo me un po' demagogico, che è stato fatto per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie con persone che hanno bisogno, cioè persone dal punto di vista non autosufficienti, sociale, non autosufficienti. Venga al punto, lei cosa io ho critichi, critichi. Nonna, ho vissuto per 4 anni con una nonna in casa e vivere con una nonna in casa allettata vuol dire per tutti i familiari praticamente cessare di vivere la propria vita privata se non si ha un minimo di sostegno. 420 euro sono assolutamente inadeguati, assolutamente. Noi familiari. E quindi su cosa non è d'accordo, mi scusi Ezio? Sul fatto che l'importante è la centralità affettiva, non è poi fondamentale l'assegno di sostentamento. No, non è mai stato detto questo. Mi spiace sia stato equivocato. Una cosa non escludeva l'altra, anzi, è auspicabile un intervento in questa direzione. Grazie Ezio da Imperia. Spiace correre così, ma purtroppo il tempo stringe. Loris da Cuneo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Il mio intervento è questo. Secondo me i fondi dovrebbero essere dati sicuramente alle famiglie per il sostegno di persone non autosufficienti. Questo è veramente scarso oggi in Italia e secondo me è fondamentale per i motivi che sono stati detti prima dai suoi ospiti, cioè un mondo affettivo che si spezza nel momento in cui la persona viene portata in un istituto. Sono sincero, io sono un po' pessimista, nel senso che il fatto di utilizzare i fondi pubblici per delle strutture sicuramente permette a certe situazioni di avere delle clientele o cose di questo tipo, cosa che invece se i fondi vengono dati direttamente alle famiglie, meno gente ci può mangiare. Ecco, questo è un pochettino la mia idea. Ma comunque è possibile anche un intervento a doppio binario. Grazie a Loris da Cuneo. Quando parliamo di strutture pubbliche parliamo anche di asili nido. L'Italia, inutile dirlo, è ultima in Europa, soprattutto in certe zone, non per la qualità, sulla qualità anzi è una brilla, ma per il numero di posti disponibili in rapporto ai bambini. Per le conclusioni, professoressa Graziottina, ha sentito anche l'opinione pubblica in un minuto. Sì, due cose. Innanzitutto ricordiamoci che l'Italia ha la migliore legge per l'assistenza alla donna in gravidanza e postpartum. È ai permessi di maternità retribuiti più a lungo e viene riconosciuto questo tempo essenziale di rapporto madre-bambino, che è un valore che va difeso a spada tratta e che negli Stati Uniti non c'è assolutamente, consegnando le donne che hanno appena partorito, esatto, a tornare al mondo del lavoro e i bambini portati nei vari asili che ci saranno. Ma ragazzi, il rapporto con la madre non ci sono, è essenziale in questo momento. Quindi questo ricordiamolo. Senz'altro, prima era stato detto che la famiglia era luogo di consumo di beni ma non di produzione, avevo capito benissimo. Comunque, per tornare a noi, è essenziale riconoscere quello che noi abbiamo di buono, che è questa grande qualità di affettività, redistribuirla nelle responsabilità della famiglia, maggior coinvolgimento dei maschi, maggior coinvolgimento dei figli, e certamente riconoscere economicamente in particolare l'assistenza agli anziani o anche quel nuovo modello fluido che stiamo vedendo, quelle donne che per esempio in un palazzo hanno 3-4 bambini e una li cura tutti e 4 e viene pagata così brevi mano dalle altre mamme. Io credo e questo grazie all'inventiva assolutamente garantisce affettività, controllo sulla qualità della vicinanza, ma anche una residenzialità che abbassa importantissima per lo sviluppo dell'individuo. Grazie, è naturalmente un tema che meriterebbe ulteriori approfondimenti, però sono stati toccati degli indicatori e soprattutto delle direzioni, dei modelli fondamentali. Grazie. Grazie dunque a Raffaella Nanetti, Alessandra Graziottini e Zamagni che ci ha lasciato. Grazie a tutti voi. Un grazie in questo ultimo giorno dell'anno a tutti quelli che permettono questa trasmissione. Dunque comincio dal producer Guido Scotti, ma anche da Paolo Corleoni e Peter Bescapè in regia. Alessandro Milan che si unirà sicuramente a questi auguri, lo risentirete dopo che tornerà l'anno prossimo, dobbiamo dire così, anche se in realtà è una manciata di giorni, è il titolare di questa trasmissione. Grazie ad Alessandro Marco Tulli, assistente producer oggi, e da Irene Zerbini l'augurio di un 2010 in cui ve la sentiate di correre dei rischi e vi sentiate di vivere senza paura. Questo è il mio augurio personalissimo. Buon anno a tutti.